Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.08, anzi quasi 09. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Questa sera ci sono io a farvi compagnia con Focus Economia per raccontarvi la giornata economico-finanziaria. Anche stasera gran parte della nostra trasmissione sarà dedicata alle novità che arrivano dalla Grecia, anche perché ormai siamo agli sgoccioli. Domani sera alle 21 si concluderà l'opportunità per gli investitori internazionali e mondiali di aderire o meno allo swap proposto appunto dalla Grecia nell'ambito del suo maxi piano di ristrutturazione del suo debito. Come sapete, è una ristrutturazione molto penalizzante per gli investitori che decideranno di aderire, perché di fatto devono rinunciare a quasi il 70% appunto del loro investimento, cancellarlo completamente. Quindi in queste ore c'è sul piatto di tutti coloro che ancora non hanno compiuto una decisione una serie di chance. Cosa fare, cosa non fare? Cercheremo di capirlo, appunto, anche perché, per la verità, anche se ci si attende un tasso di adesione molto alto per fare in modo che poi un'eventuale bancarotta del paese non cada a domino su tutto il resto del mondo, c'è ancora chi chiaramente una decisione non ha presa e in realtà il fatto di non aderire non è da sottovalutare, perché naturalmente poi le conseguenze sono di altro tipo. Noi oggi cercheremo di spiegarvele appunto nel corso di Focus Economia. Giornata che, esattamente come è successo ieri, è comunque sui mercati stata molto condizionata dalle notizie che arrivano dalla Grecia. Oggi per la verità si è un po' allungata la lista appunto degli investitori internazionali, dei creditori internazionali che hanno deciso di aderire al cosiddetto swap, così si chiama appunto in gergo tecnico finanziario il concambio, lo scambio dei titoli. Le borse ieri hanno vissuto una giornata nera, come saprete. Oggi hanno tentato il rimbalzo, ma è un rimbalzo di sicuro molto modesto rispetto ai cali di ieri. Milano sta guadagnando quasi un punto, Parigi più 0,7, Francoforte più 0,57, Londra più 0,29%. C'è una giornata di recupero e rimbalzo anche per Wall Street, che pure ieri era andata male, meno male dell'Europa, ma comunque aveva terminato la sua seduta in negativo. Il Dow Jones adesso registra un più 0,42%, il Nasdaq più 0,73%, lo Standard & Poor's più 0,53%, l'euro sul dollaro è 1,31,50, e anche oggi lo spread ci ha fatto un po' soffrire, perché stamattina in apertura di seduta è ritornato sopra i 330 punti base per poi scendere leggermente, ma in ogni caso, visto che nei giorni scorsi aveva flirtato con quota 300, ci eravamo illusi insomma che ormai il trend di discesa fosse iniziato e consolidato. Invece qualche volta la tensione fa ancora capolino, ma soprattutto il bond decennale sul mercato secondario è ritornato sopra il 5%, anche quello segnala un po' di disturbo che va monitorato con attenzione. Noi di tutto questo naturalmente parleremo a Focus Economia, parleremo anche di un altro tema che riguarda esplicitamente il nostro paese. Parleremo dell'IMU, e cioè quell'imposta sugli immobili che, come sapete, è stata reintrodotta quest'anno e che sostituisce l'ICI per effetto del decreto Salva Italia. Allora voi direte: perché ne parlate già, visto che si deve pagare a metà giugno la prima rata? E ne parliamo perché comunque i comuni, visto che il governo ha fissato l'aliquota dello 0,4%, in realtà i comuni hanno la facoltà di ridurla o aumentarla a seconda delle loro esigenze finanziarie. Proprio in queste settimane stanno valutando che tipo di scelte fare, che, come sapete, saranno in gran parte dei comuni italiani appunto peggiorative, con un aumento dell'aliquota, quindi con un utilizzo della loro possibilità appunto di ampliare l'aliquota da applicare ai contribuenti. Il Sole 24 Ore domani pubblicherà un accurato esame appunto delle possibili scelte dei principali comuni italiani. Noi più tardi, da un collega del Sole 24 Ore, ci faremo raccontare appunto cosa succede su scala territoriale. Parleremo anche di un argomento un po' più divertente, più light, più fresco. Parleremo di Vinitaly, la grande rassegna del vino del nostro paese, che oggi è stata presentata a Milano nella sua 46esima edizione, che si svolgerà alla Fiera di Verona dal 25 al 28 marzo. Questi i principali temi che approfondiremo oggi, ma abbiamo anche tante altre, come sempre, notizie in breve. mentre cerco di capire cosa stanno facendo in studio con una bottiglia in mano, assistente Barbara Bianchi, probabilmente stanno brindando al fatto, sta sgasando da quello che mi dicono una bottiglia d'acqua, va bene, poi magari ne chiedo un po' se qua la gola va a secco. Oggi intanto, cominciando con le materie prime, vi racconto che abbiamo l'oro in rialzo, anche se resta la sua quotazione sotto i 1700 dollari l'oncia. Oggi è stato scambiato sul mercato di Singapore a 1674 dollari, mentre il petrolio, sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente degli ultimi giorni, ha continuato a muoversi a rialzo a New York. Il WTI, il greggio di riferimento americano, ha aperto a 105,26 dollari al barile. Andiamo alla crisi europea. L'Europa è sul giusto cammino, ha fatto passi in avanti che nessuno avrebbe mai creduto qualche anno fa. Penso che dovremo affrontare ancora problemi per un bel po', ma siamo sulla giusta strada, anche grazie all'Italia. Quanto ha detto, quindi un bel riconoscimento che raramente ci arriva dalla Germania, perché questo lo ha detto il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio italiano Monti. Mario Monti è una speranza per l'Italia e per l'Europa, ha aggiunto ancora Schäuble al termine di questo incontro, precisando che da molto tempo abbiamo un rapporto di fiducia e l'amicizia si è intensificata. I rapporti con il governo tedesco, con la cancelliera Merkel e con il ministro Schäuble hanno costituito un riferimento costante per noi. Il nostro incontro è stato molto utile, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di opinioni su questa fase che speriamo sia di uscita dalla crisi finanziaria, legata soprattutto al caso greco, e di ingresso in una stagione di maggiore crescita, lo ha detto Monti in questa conferenza stampa congiunta con il ministro Schäuble. E nel corso di questa conferenza stampa, chiaramente, il premier Monti ha avuto anche l'occasione per parlare di questioni squisitamente domestiche, come per esempio la discussione sulla riforma del mercato del lavoro che, ha detto Monti, come è noto, troverà la sua conclusione per la fine di marzo. Sentiamolo. Abbiamo dato un quadro aggiornato al ministro Schäuble sugli sviluppi italiani, non solo in materia di disciplina di bilancio, ma anche in materia di liberalizzazioni, concorrenza e mercato del lavoro, tema che, come è noto, troverà la sua conclusione, come previsto, per la fine di marzo. In Italia non si può non richiedere che si lavori di più, in più e più a lungo, ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, oggi precisando che non si tratta di uno slogan, ma di un percorso inevitabile da affrontare con determinazione, anche se con gradualità. Per Visco non può esserne più rinviato l'inizio. Il governatore Visco ha anche aggiunto: l'Italia è innanzitutto un paese anziano e ha precisato che il paese ha molti divari da recuperare, deve affrontare e rimuovere ostacoli importanti per assicurare una crescita con quelle caratteristiche. Il governo intende allungare il periodo di soggiorno dei lavoratori immigrati che perdono il lavoro per tutto il tempo di durata del sussidio di disoccupazione, quindi anche un anno in più nel caso della mobilità, dai 6 mesi previsti oggi. Lo ha detto il ministro del lavoro, del welfare, Elsa Fornero, nel corso di un question time alla Camera. Per i lavoratori della scuola non saranno portate indietro le lancette per quanto riguarda le nuove regole sul sistema previdenziale. Lo ha detto ancora il ministro del lavoro Fornero nel corso del question time alla Camera, come dicevamo prima. Per quanto io possa umanamente comprendere il senso di delusione, ha detto il ministro Fornero, rispondendo alla richiesta di allargare il mantenimento delle vecchie regole per gli esodati al personale della scuola fino al 31 agosto 2012, non lo ritengo un'ingiustizia e non credo che possiamo tornare sulla questione. Salta l'indicazione dell'assunzione di 10.000 precari della scuola dall'emendamento all'articolo 50 del provvedimento sulle semplificazioni. Sarebbe questo uno dei punti dell'intesa raggiunta nella riunione di oggi fra relatori e governo sul provvedimento. Le coperture per eventuali aumenti di organico saranno comunque realizzate con un fondo dell'istruzione. Lo sentivate anche nel giornale radio, salta l'aumento delle tasse su alcolici e birra come copertura dell'assunzione dei 10.000 precari della scuola previsto appunto dal provvedimento semplificazione, lo dicevamo un attimo fa. La novità anche in questo caso è emersa dalla riunione di oggi fra governo e capigruppo sul provvedimento. La copertura sarà garantita dal MIUR, dal Ministero appunto dell'Università, ma potranno anche arrivare le coperture appunto dai giochi. Questo governo ha avviato un percorso di riforme che va portato avanti, dice la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che avverte bene il percorso avviato su liberalizzazioni, semplificazioni, lavoro, ma non è sufficiente, dobbiamo accelerare sulle riforme, molto c'è da fare ancora, noi non saremo mai un veto player, ma saremo sempre di supporto anche quando ci saranno riforme impopolari. Lunedì al tavolo sulla riforma del mercato del lavoro ci aspettiamo che il governo faccia chiarezza sulle risorse per gli ammortizzatori sociali e una proposta sulla flessibilità in uscita. Anche in questo caso questa è una dichiarazione di Emma Marcegaglia, leader degli industriali, che sull'articolo 18 ha ribadito la proposta di Confindustria. Il reintegro deve valere solo in caso di licenziamento discriminatorio. Ci aspettiamo che sugli ammortizzatori si faccia chiarezza sulle risorse che il governo intende mettere, si faccia chiarezza definitiva, il ministro l'ha già detto, che per 5 anni gli attuali ammortizzatori sociali rimarranno così. E aspettiamo che il governo dia una risposta, appunto come sapete il ministro Fornero ha deciso di rimandare la riunione, secondo noi correttamente, per avere chiara la situazione delle risorse pubbliche da mettere sul tavolo. Mi pare di capire che il ministro sta lavorando per avere un paio di miliardi di euro, diciamo, di risorse aggiuntive, non so se basteranno, ma insomma. Prima di andare avanti con le altre notizie in breve di oggi, volevo rassicurare alcuni ascoltatori che già ce lo hanno chiesto. A proposito di swap, bond, greci, per favore parlate della clientela retail, qui in Italia non ne parla nessuno. Lo dico all'ascoltatore, noi abbiamo parlato a Salva Danaio, ma stasera è la puntata per lei, perché avremo un consulente finanziario che ci aiuterà a capire proprio che cosa dovrebbe fare, anche se nessuno si può mettere al posto appunto di un privato che deve fare la scelta se aderire al concambio o meno, ma cercheremo di capire quantomeno le opzioni che ci sono sul tavolo, anche se temo che ormai la decisione alla propria banca, al proprio intermediario finanziario deve essere stata comunicata, quindi è forse anche tardi per dare delle indicazioni concrete. Comunque ci andiamo tra qualche minuto. Detto questo, andiamo invece al mercato dell'auto. Le case automobilistiche estere presenti in Italia riunite nell'URAE rilanciano l'allarme a marzo, fa sapere l'associazione. Negli ordini acquisiti proiettano un mercato da 150.000 targhe meno 20% ed un trimestre da 418.000 immatricolazioni, quindi con un calo rispetto ad un anno fa del 19%. Il mercato italiano dell'auto potrebbe chiudere quest'anno a quota 1.600.000, ma è ancora da vedere. Nel 2013 ci sarà sicuramente la ripresa, peggio di così non può essere, stiamo davvero toccando il fondo, ha affermato Sergio Marchionne al Salone dell'Auto di Ginevra. Stiamo pagando il prezzo degli ecoincentivi, ha aggiunto, perché l'Italia li ha usati per più tempo di altri paesi europei. E a smaltirli ce ne vuole, e dobbiamo anche però ricordare, insomma, che questi incentivi hanno aiutato anche tanto la Fiat, per cui per fortuna che ci sono stati, altrimenti non si sarebbero vendute neanche quelle auto che si sono vendute negli ultimi anni. Secondo Marchionne, un mercato normale in Italia dovrebbe collocarsi fra i 2.100.000 e 2.200.000 unità appunto di auto vendute evidentemente ogni anno. Non abbiamo partecipato per il momento, non ne abbiamo bisogno, così sempre Marchionne ha risposto alla domanda se la Fiat abbia chiesto alla BCE accesso ai prestiti a tasso agevolato previsti dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'operazione di rifinanziamento a 3 anni dello scorso 29 febbraio. Adesso rapidamente le altre curiosità della giornata con la nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Filettino, paesotto di 500 abitanti, 1000 metri sul livello del mare, provincia di Frosinone. La scorsa estate, quando Giulio Tremonti propose l'abolizione dei comuni sotto i 1000 abitanti, il sindaco Luca Sellari si inalberò. Allora noi facciamo un principato, disse. La cosa si è avviata e non interrotta, nemmeno quando a Filettino venne restituita la dignità di territorio municipale. Quindi un referendum che coinvolse i residenti e i molti che a Filettino hanno la casa delle vacanze. In questo paese ci sono 5.800 abitazioni ed estate la popolazione arriva anche a 20.000 abitanti. Il referendum incoronò Carlo Taormina, 72 anni, avvocato penalista in Ustica, Tangentopoli, Cogne e tanti altri casi noti e per pochi mesi sottosegretario all'interno con Premier Berlusconi nel 2001. Taormina, nel suo ampio potere, ha persino nominato i ministri, oltre al regista Pasquale Squitieri, Premier, si segnala alla sanità l'urologo di Papa Ratzinger, il professor Augusto Mosca. Rimane da capire quali siano le aspirazioni e soprattutto i poteri del governo. Prima cosa, spiega Taormina, il Principato chiederà un compenso alla regione in cambio dell'acqua distribuita in mezza provincia e magari sarà imbottigliata. Poi si farà politica estera, nella speranza di venire riconosciuti da qualcuno, per esempio. È stata avanzata una richiesta ufficiale al Vaticano, fin qui inevasa. Si magnificheranno i boschi cedui, si sponsorizzeranno le piste da sci un po' abbandonate. Ma cos'è questa crisi? Eh sì, ci voleva anche la deriva degli enti locali, addirittura la costituzione di un principato. Andiamo ad un'altra notizia prima di andare ai temi seri serissimi di oggi che riguardano la Grecia. Sentite cosa è successo oggi a Milano, perché una decina di attivisti di Rivolta il Debito ha organizzato questa mattina di fronte alla sede centrale di Unicredit in Piazza Cordusio a Milano un flash mob, durante il quale è stato allestito uno sportello in cartone Unidebit. Due di loro, di questi manifestanti, si sono fatti fotografare con le maschere di Mario Monti e Giorgio Napolitano, quindi il Premier e il Presidente della Repubblica. Addirittura avevano in mano, insomma, una pistola di cartone. Questa è una provocazione della quale se ne poteva anche fare a meno. Lo sportello è stato aperto, hanno spiegato gli organizzatori in un comunicato stampa, sotto gli alti auspici della coppia di governo tecnico Monti-Napolitano. Come loro abitudine, hanno gentilmente i manifestanti invitato cittadini e cittadine, meglio se pensionati e pensionate, lavoratrici e lavoratori, precari e precarie, a consegnare loro i pochi risparmi, le pensioni, il TFR e così via, promettendo in cambio più reddito per banche, finanziarie, assicurazioni, grandi imprese, appaltatori di opere pubbliche inutili. L'iniziativa si chiama Sbanca la banca e sarà riproposta nei quartieri periferici del capoluogo lombardo, hanno così fatto sapere gli organizzatori. E allora andiamo alla crisi greca, perché a questo punto sono ore decisive. L'appuntamento è per domani sera alle 21, data per la quale 8 marzo, quindi alle 9 di sera, è fissata la scadenza per l'adesione dei creditori privati al piano di ristrutturazione del debito greco. E poi, dopodomani, l'Eurogruppo terrà una teleconferenza per fare il punto sull'operazione. Un'altra data centrale di tutte queste scadenze, ce ne sono tante, ma queste sono le più importanti di marzo sicuramente. Il 20 marzo Atene ha in programma un appuntamento molto importante con la comunità finanziaria internazionale, perché deve rimborsare 14 miliardi e mezzo di titoli in scadenza. E allora, adesso cercheremo di capire quali sono le novità della giornata e soprattutto come rispondere agli ascoltatori che ci stanno scrivendo, che non sanno che cosa fare con i titoli del debito greco in loro possesso, anche se temo che ormai la decisione deve essere stata comunicata alla banca, qualora si sia deciso di aderire o meno a questo concambio, a questo famigerato swap. Comunque cercheremo di capirlo un po' meglio con degli esperti. Intanto, per la cronaca della giornata, Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. E poi saluto Gianni Lupotto, consulente finanziario, titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente Lupotto & Partners, che ci spiegherà appunto che cosa stanno suggerendo ai loro clienti che si trovano con questa al momento carta non ancora straccia in mano, ma insomma forse potrebbe anche diventare carta di questo tipo, speriamo di no, ma insomma diventerà carta con ben poco valore rispetto all'acquisto che è stato fatto, all'investimento che è stato fatto. Non so se è il caso, prima di cominciare a fare la nostra chiacchierata, di mandare Pietro direttamente alla pubblicità, così almeno faccio fare dei discorsi, anche dei ragionamenti articolati senza interromperli ai nostri ospiti. Io intanto dico anche ai nostri ascoltatori, non l'ho ricordato ma loro lo sanno bene, che possono scriverci i loro commenti sui temi della giornata al 349-238-6666. A tra poco con la crisi greca. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani che questa sera vi tiene compagnia per Focus Economia, per la giornata economico-finanziaria che necessariamente deve fare il punto sulla questione greca. Entro domani sera alle 21 la comunità finanziaria internazionale deve decidere se aderire o meno al piano di ristrutturazione del debito greco, al cosiddetto PSI, poi vi dico perché in gergo finanziario l'offerta di scambio si chiama in questo modo. Questa offerta indirizzata ai creditori privati della Grecia, quindi a banche, compagnie di assicurazione, fondi di investimento, ma anche comuni risparmiatori, e molti sono nel dilemma su che cosa fare o meno, anche se per la verità, se il termine è domani, credo che le banche, soprattutto per i piccoli, abbiano chiesto di accelerare i tempi, e credo che ormai i piccoli la loro decisione debbano averla presa. Adesso cercheremo di capirlo, prima di tutto con Vittorio Daroldi, inviato delle Sole 24 Ore, quindi un esperto ormai, il più autorevole conoscitore della questione greca del quotidiano. Vittorio, intanto oggi abbiamo visto nuovi record per i rendimenti dei titoli di Stato greci, il tasso del biennale è schizzato per la prima volta sopra il 250%, quello del decennale ha superato la soglia del 40%, e questa è una cosa. Si sa già quante istituzioni finanziarie hanno fino ad ora dato il loro ok alla ristrutturazione del debito greco, quante accettano di cancellare il 70% del loro investimento fatto in passato per aderire appunto al concambio? Si ha un'idea della percentuale raggiunta fino a questo momento? Sì, esattamente. La nota dell'Institute of International Finance, l'IIF, che è un po' l'associazione delle più grandi banche e assicurazioni del mondo, che sono appunto quelle che hanno deciso e trattato con il governo greco, ha appena rilasciato una nota che dice che sono 32 il numero delle banche che hanno accettato i termini dello swap proposto dal governo greco, per una pari quindi a 84 miliardi di euro, che è circa il 40,8% dei 206 miliardi complessivi che rientrano nel programma di concambio. Quindi siamo ancora ben lontani dalla, intanto, la soglia minima di adesione, che dovrebbe essere il 75%, perché poi tutto quello che succederà in seguito dipenderà dal quorum raggiunto. C'è un'opzione fissata se si raggiunge il quorum del 90%, un'altra opzione fissata se si raggiunge un quorum compreso fra il 75 e il 90, e altre situazioni appunto non prevedibili se invece non si raggiunge neanche il quorum minimo. Vittorio, decideranno tutte domani secondo te, oppure domani sarà una giornata tranquilla? Così, ma ti chiedo ovviamente un'opinione nell'ordine delle tue sensazioni, perché siamo in una condizione del tutto imprevedibile, immagino. Assolutamente, ci vorrebbe la sfera di cristallo, però la Bloomberg, che ha fatto dei calcoli utilizzando anche delle fonti appunto riservate, dice che già siamo arrivati al 58%. Cioè hanno calcolato che stiamo avvicinandosi a queste soglie, diciamo, critiche. Dopodiché è evidente che tutto verrà deciso e comunicato appunto all'ultimo, al giovedì poco prima della scadenza, quindi effettivamente sarà una corsa all'ultimo minuto. Sono le ultime ore, poi anche quelle decisive per gli indecisi che ancora non hanno fatto tutti i calcoli, perché la situazione è veramente complessa, ci sono diverse opportunità, diverse cose da tenere in conto, sono anche due grandi filoni, quelli che riguardano, diciamo, i domestici, cioè i titoli detenuti da i greci stessi, da banche, istituzioni o appunto retail greci, che hanno un trattamento diverso, e quelli invece internazionali, che hanno un trattamento un pochino più complesso e più elaborato. Certo, c'è chi quindi è sottoposto alla giurisdizione interna greca, chi invece alla giurisdizione internazionale. Vittorio, tra l'altro noi abbiamo detto che il 9 marzo, quindi venerdì, l'Eurogruppo si riunirà in teleconferenza per fare il punto sull'operazione, ma secondo te si conosceranno già i risultati risultati definitivi dello swap alle 21.30 di domani sera o al più tardi venerdì mattina, cioè i risultati saranno resi noti in tempo più o meno reale? Io penso di sì, io penso che venerdì mattina avremo già qualche dato significativo, perché l'Europa non darà i soldi per la scadenza del 20 marzo prima di vedere se questo PSI ha funzionato, perché è un elemento fondamentale. Infatti. Cioè nella partita a scacchi che si sta giocando, dove tutte le contraddizioni anche della finanza internazionale, la leva, gli swap, i credit default swap, che probabilmente è il vero elemento su cui si sta giocando la partita, perché alcuni dei fondi, degli hedge fund che partecipano, hanno acquistato quote rilevanti di bond, si sono riprotetti e in qualche modo stanno giocando una partita contraria a quella agli interessi del governo greco, cioè non vogliono aderire e vogliono appunto far scattare il default, ma il default scatta soltanto appunto quando i CDS quando il default non viene pagato, quindi i CDS ti assicurano di dare questa. Quindi sono all'interno delle grandi istituzioni bancarie, oltre naturalmente ai piccoli risparmiatori, c'è una battaglia fra due opposte fazioni, tra chi ha, come dire, si è assicurato e chi invece sarà tenuto a chiamare, e a quindi, pagare. E certamente tra chi chiaramente dalla bancarotta potrebbe venirne fuori con una svalangata di miliardi di dollari, euro e quant'altro, e chi invece pagherebbe pesantemente chiaramente per questa bancarotta. Allora, tanto per citare anche alcuni dei colossi finanziari internazionali che hanno deciso di aderire allo swap, volevo segnalare agli ascoltatori che ci sono stati anche Societe Generale, Assicurazioni Generali, ieri Unicredit ha comunicato l'adesione al piano di ristrutturazione, oggi lo ha fatto anche Allianz, anche un'altra banca tedesca, DZ Bank, non so chiaramente come l'ho pronunciata. Oggi è successa però anche un'altra cosa importante, che Borsa Italiana ha comunicato questa mattina presto, prima dell'apertura dei mercati, che i prestiti obbligazionari nella Repubblica Ellenica sono stati sospesi dalle negoziazioni a tempo indeterminato. E qua facciamo entrare in gioco il nostro consulente finanziario Gianni Lupotto, perché mi sono letta un loro report su quello che suggerivano ai loro clienti di fare in questi giorni, e tra i suggerimenti più come dire caldeggiati alla loro clientela c'era proprio quello di diciamo vendere prima della chiusura dello scambio i titoli appunto in possesso, almeno fino a quando fossero stati liquidabili con facilità, perché poi non è detto neanche che si trovassero degli acquirenti sul mercato. Ma da oggi, Lupotto, tutto questo, qualora anche uno si fosse riservato fino all'ultimo momento la decisione, non è stato più possibile. Non è stato possibile oggi. Sì, buonasera. Infatti, buonasera. È così. Il suggerimento si riferiva alle giornate di lunedì e martedì, quando ancora era possibile effettuare anche l'opzione. Infatti la gran parte delle banche, come accennava lei prima, hanno messo come data ultima di adesione la serata di ieri. Qualcuna ha ancora posticipato la scelta oggi. Ma in ogni caso la liquidità sul mercato era sufficiente nelle giornate di lunedì e di martedì. Allora, voi avete fatto un lavoro molto chiaro, questo ve lo devo riconoscere, un report che ho io in mano, ma lo hanno fatto sicuramente molte altre società. Io ho questo sotto gli occhi e a questo appunto esprimo il mio consenso sul funzionamento dell'offerta di scambio, che ha, lo abbiamo per la verità spiegato molto bene anche venerdì scorso con Vittorio Darolde e con un altro analista, come funziona appunto questa offerta di scambio per chi, per semplificare al massimo la situazione, avesse in mano in questo momento un'obbligazione da 1000 euro appunto di nominale di titoli greci. Che cosa avrà se aderisce allo scambio, e se questo scambio fosse accettato da tutti i creditori internazionali, che cosa avrà in cambio a partire dai prossimi giorni, dalla prossima settimana? Prima però di spiegarlo, Lupotto, le volevo chiedere, ma se anche lo swap avesse successo e se tutti i finanziatori internazionali aderissero a questa operazione, a questa ristrutturazione, se avesse successo al 100%, i titoli che scadono il 20 marzo, i 14 miliardi e mezzo, come verranno rimborsati ai legittimi sottoscrittori e detentori? Già con lo scambio effettuato e deciso in questi giorni oppure integralmente? No, nel caso in cui l'offerta andasse avanti, anche i titoli in scadenza a marzo erano ricompresi nell'offerta di scambio, quindi anche questi verrebbero convertiti in questo complesso pacchetto di titoli che vengono dati in scambio. Quindi già una cosa la sappiamo per certa, appunto, se lo swap andasse bene, quindi se fosse accettato da tutti o da quasi tutti, già questi 14 miliardi e mezzo di titoli sono oggetto della ristrutturazione, per cui a chi scade questo titolo a fine mese deve sapere già che se avesse 1000 euro di nominale in portafoglio, Lupotto, adesso le assegno questo lavoro complicatissimo, che cosa otterrà in cambio, perché qua è veramente un giardinetto molto articolato da spiegare. Sì, è così, cerchiamo di renderlo il più semplice possibile. Quindi per ciascuna obbligazione offerta in scambio, il risparmiatore riceve un pacchetto composto, diciamo così, di quattro segmenti. Anzitutto riceve 20 nuove obbligazioni di un valore nominale complessivo di 315, ricordiamo che partivamo da 1000 di nominale originario, quindi riceve 20 nuove obbligazioni di valore nominale complessivo di 315 con scadenze differenziate che partono dal 2023 e vanno fino al 2049. Quindi anno dopo anno questi titoli vanno in scadenza, queste 20 obbligazioni, e ciascuna di queste obbligazioni ha un valore nominale di 15 o di 16 euro. Sì. Va detto anche con tassi di interesse estremamente bassi, perché si parte dal 2% per i primi 4 anni, poi si arriva al 3,65 fino ad arrivare al 4,30% per gli ultimi 20 anni di durata di queste obbligazioni. E questi sono i primi 315 euro. Poi? Poi abbiamo due titoli emessi in questo caso dal Fondo Salva Stati per un valore complessivo di 150 euro, quindi 2 da 75, che scadono fra un anno e fra due anni. Quindi ci sono 150 euro, questi diciamo possiamo considerarli sicuri, perché sono diciamo garantiti dal Fondo Salva Stati fra un anno e fra due anni. E poi c'è questa, è divertente, mi permetta di dirlo, perché ho visto quello che pensate rispetto alla corresponsione appunto e alla restituzione di questo warrant emesso dalla Repubblica Ellenica, un titolo che praticamente il cui rendimento sarà agganciato all'andamento del PIL greco dei prossimi anni. Questo era tra l'altro un titolo simile ad un emesso anche nell'ambito della ristrutturazione del debito argentino. A chi aveva diritto a quello scambio, in questo caso andò bene, in quel caso andò bene. Su questo warrant invece qual è il vostro pensiero, Lupotto? Siamo estremamente perplessi, perché questo warrant ha un valore nominale di 315 euro, anche questo, ma non dà diritto ad un capitale a scadenza, bensì ad un pagamento di interessi su questo valore nominale legato ad un percorso di crescita del PIL della Grecia che per il momento ci pare di là da venire, perché si sta parlando di almeno il 2% di crescita all'anno, e sappiamo da che punto di partenza parte la Grecia in questo momento, da PIL fortemente negativi. Quindi secondo noi il valore da considerare di questo warrant è prossimo a zero. C'è ancora un'ultima piccola porzione che viene corrisposta sotto forma di un titolo che scade fra sei mesi, e che sono i ratei eventualmente non goduti delle obbligazioni date in scambio, che appunto verranno pagati fra sei mesi con un titolo delle FSS. Allora vi chiedo ancora un minuto di pazienza, chiedo a Vittorio Darolde e Gianni Lupotto di fermarsi ancora per un paio di minuti, poi li lascio, perché dobbiamo anche spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sono le clausole di azione collettiva, e cioè a seconda del raggiungimento di un determinato quorum di questo swap, di questo concambio, che cosa succede, quando scattano queste clausole, quando non scattano, che conseguenze ha questa eventuale circostanza. Solamente un minutino di pazienza, perché sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Allora, andiamo agli ascoltatori che ci danno il là anche per concludere tutto il nostro ragionamento sulla Grecia che abbiamo fatto fino a questo momento. Vittorio Darolde, allora, abbiamo dato delle percentuali prima, è in corso di svolgimento questo swap, questo concambio fra vecchi titoli, praticamente, che la Grecia chiede di ritirare dal mercato perché in cambio ci offre tutto il pacchetto che Gianni Lupotto già spiegato fino a qualche minuto fa. Allora, se domani sera il quorum raggiunto fosse sotto il 50%, intorno al 50%, che cosa succederà se non si raggiunge intanto, come dire, una soglia minima? Qui allora cominciano i problemi seri, perché a quel punto la situazione potrebbe veramente sfuggire di mano e non è un bel segnale. allora vuol dire che il PSI non ha funzionato, il fallimento è dietro l'angolo e i partner europei possono avere, come dire, devono decidere cosa fare, se intervenire ulteriormente con un prestito, anche se questo non è stato rispettato una delle clausole, oppure no. Il vero problema è che abbiamo anche due diverse situazioni. I bond, diciamo, greci, che hanno una minore, diciamo così, soglia, perché basta il 33% dei 177 miliardi che sono in mano appunto ai privati, che sono greci, per far scattare le clausole collettive per i greci, per chi ha titoli greci. Mentre nel senso che se si raggiunge quella soglia il governo ha detto aderite tutti quanti e basta, quindi obbligatoriamente, basta raggiungere il 33%. Lì ci sono le banche greche, naturalmente le assicurazioni, i fondi pensioni greci, tra parentesi non tutti i fondi pensioni, ad esempio i fondi pensioni dei giornalisti greci non hanno accettato, cosa abbastanza singolare, come quelli delle autonomi, della polizia. Allora, abbiamo detto il quorum minimo, se invece, perché qui ci sono tre circostanze diverse, se invece avviene praticamente un'adesione compresa fra il 75 e il 90%, si manifesta un'altra eventuale circostanza? Tra il 90 e il 75 praticamente la questione è che il governo greco, Atene, ha la possibilità di far scattare le clausole collettive che farebbero scattare a loro volta questo possibile credit event, che a sua volta farebbe scattare l'assicurazione, il credit default swap. Questo è un evento che nessuno vuol far scattare, comunque Atene ne avrebbe la possibilità, attenzione, ma a condizione di avere il via libera con la Troica, cioè deve avere un assenso anche con i creditori internazionali, quindi è una possibilità in qualche modo vigilata. Il paese ha una forma di commissariamento, perché senza i soldi dell'Unione Europea, del Fondo Monetario, il 20 marzo non paga. Ecco, per cui sì, è un'opzione, ma attenzione, un'opzione ancora tutta lasciata alla dialettica interna. Sopra il 90%, invece lì sarebbe considerato volontario, cioè tutto andrebbe a finire nel migliore dei modi, cioè lo swap si fa, ma non è assolutamente, diciamo così, non c'è neanche la possibilità di far scattare queste tanto temute CAC, le clausole collettive di azione. Beh, quindi, però se il 90% viene raggiunto, per il restante 10% le CAC vengono applicate, o no? Il 10% restante non ha l'obbligo nel di… Nel senso che è volontario, a quel punto chi non ha partecipato potrebbe, se ha detto no, potrebbe appunto in qualche modo godere dello stesso trattamento di chi non paga il biglietto sull'autobus o sulla metropolitana, gode del viaggio ma a senza carico degli altri, insomma ha fatto lo scrocco. Gianni Lupotto condivide questa ultima analisi fatta da Vittorio D'Aroldo, una sorta di andare allo scrocco, appunto andando a rimorchio di chi ha già preso una decisione, ma ci sono degli ascoltatori che ci stanno scrivendo che effettivamente hanno dato il loro dissenso alla banca in questi giorni. Un ascoltatore ci scrive: io sono un privato, non ho aderito, adesso che cosa mi succede? Abbiamo fatto le varie opzioni con Vittorio D'Aroldo, lei che cosa ne pensa? Quale sarà l'opzione più probabile, quella che Affiuto da consulente finanziario avverte maggiormente? Mi sembra più probabile che si vada a ricadere tra il 75 e il 90%. L'ipotesi più, se proprio potevamo scegliere la più complicata di tutte quante, certo. Mi sembra così, probabile vedendo come si stanno muovendo adesso le adesioni. È chiaro che le adesioni arriveranno la gran parte all'ultimo minuto, come sempre succede, come già D'Aroldo ricordava. Mi sembra difficile superare il 90%. Peraltro noi abbiamo passato parecchie ore a leggere le complicatissime carte del Ministero del Tesoro greco e io ho un parere leggermente diverso sull'applicazione delle CAC oltre il 90% di adesione. A me sembra possibile che vengano azionate automaticamente azionate se l'adesione supera il 90%. Quindi anche per questo privato che dice io non ho aderito, il suo titolo verrà ritirato e lui avrà la facoltà di fare uno scambio secondo i criteri che ci ha spiegato prima? Sì, guardi, nel comunicato stampa del governo ellenico è scritto così. Se poi si va a vedere il documento ufficiale è scritto in maniera più criptica, però tutto sommato è scritto anche così, a mio giudizio. Si sta nell'ambito delle opinioni, tenga presente che quel documento lì è certamente stato scritto con l'intento di confondere un po' di con qualche pistola puntata alla tempia, mi sa. E lasciare le cose nel vago, lo ricordava appunto anche il collega prima. È proprio così, è stato scritto in maniera maniera complicata per non far capire tutto. Allora, ecco, scusate, mi ci scrivono degli ascoltatori, non ho capito che cosa succede ad un investitore che non avesse fatto nulla. Niente, dipenderà da quello che sarà il quorum complessivo, per cui state tranquilli perché tanto nei prossimi giorni sulla questione ci dobbiamo ritornare. Io intanto ringrazio molto Vittorio Darold e Gianni Lupotto per lo sforzo anche di comprensione rispetto a tutta la documentazione di interpretazione che hanno fatto, rispetto a tutta la documentazione internazionale che passa tra le loro mani tutti i giorni. Grazie ad entrambi. Noi adesso abbiamo solamente un minuto di tempo per rapidamente dare la chiusura di borsa, una piccola anticipazione con il nostro Paronetto. Buonasera, Radio Corriere, Il Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Allora Paolo, Milano più 1,11%, abbiamo un minuto prima di chiudere, poi i temi della giornata ci li darai più tardi se hai pazienza di aspettare 10 minuti. Rimbalzino rispetto a ieri, ma insomma le borse non si sono sforzate tanto oggi. Sì, esattamente, dopo lo scivolone di ieri, oggi gli listini hanno tentato di rialzare la testa, naturalmente l'attenzione è tutta sulla Grecia in vista della scadenza di domani per vedere, come dicevate voi, quale sarà l'adesione dei creditori privati alla ristrutturazione del debito. Intanto oggi le banche sono state le banche a recuperare particolarmente terreno e a trainare Milano, che è stata la migliore tra le principali borse europee, grazie anche al calo dello spread che è sceso ulteriormente, proprio anche in recupero dopo la debolezza delle ultime sedute. Parigi più 0,89, Francoforte più 0,5, Londra più 0,44, questo è il resto d'Europa. Per il resto invece dei casi di Piazza Affari ci sentiamo dopo il giornale radio. Sono le 18.08, ancora buonasera da Deborah Rosciani per l'ultima parte di Focus Economia, la giornata economico-finanziaria. Abbiamo parlato tanto di Grecia, adesso la accantoniamo, ma comunque anche le notizie che sono relative alla Grecia continuano a condizionare le sedute di borsa. Questo è accaduto ieri particolarmente, oggi gli investitori hanno preferito andare a fare shopping e quindi ricomprare tutti i titoli che ieri erano scesi parecchio. L'Europa ha chiuso con rialzi differenziati, Parigi più 0,89, Francoforte più 0,57, Londra più 0,44, Wall Street è positiva per mezzo punto percentuale sul Dow Jones, sul Nasdaq è quasi un punto di rialzo, Standard & Poor's più 0,66%, Milano archivia la giornata con un più 1,11%. I fatti del giorno li commentiamo con Paolo Paronetto, collega di Radio Cor Il Sole 24 Ore. Paolo, prima abbiamo detto che oggi hanno vistosamente recuperato i titoli bancari, che naturalmente sono fortemente collegati alla crisi greca, all'andamento dello spread, all'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. Oggi lo spread è ritornato almeno stamattina sui 330 punti base, con il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario sopra il 5%. Poi però sulle finali, insomma, tutti piuttosto scoppiettanti i titoli del settore. Sì, esattamente, sul finale ti do l'ultimo aggiornamento, lo spread è sceso anche a 316 punti base, quindi ovviamente i titoli bancari hanno beneficiato anche di questo. Inoltre ci sono alcune notizie specifiche su alcuni titoli, in particolare il Banco Popolare, che è stato il miglior titolo del FTSE MIB, è salito del 7%, e qui ha beneficiato delle stime che si stanno diffondendo sul mercato da parte di alcuni analisti, che sono ora più ottimisti sulla possibilità dell'istituto di raggiungere i target di patrimonializzazione fissati dall'EBA senza dover ricorrere a un altro aumento di capitale. In particolare Equita Sim sottolinea che ora sembra che l'istituto possa farcela. Inoltre un altro interrogativo era sull'eventuale conversione del bond da 1 miliardo emesso dalla banca. In precedenza Equita si aspettava la conversione integrale del prestito, mentre adesso si limita a prevedere una conversione per 350 milioni. Quindi diciamo che si allentano le tensioni sul capitale e il titolo oggi ne ha beneficiato. Quanto invece al Monte dei Paschi di Siena, che è salito del 3,6%, secondo indiscrezioni e di stampa è più vicino l'ok da parte del Ministero dell'Economia alla vendita del 15% del capitale da parte della fondazione, che quindi sbloccherebbe il riassetto nell'azionariato della banca, e anche questa è una notizia che oggi ha sostenuto il titolo. Più 3,60% infatti per i titoli di Rocca Salimbeni, il migliore come diceva Paolo, il Banco Popolare più 7% e poi la Popolare di Milano più 4,74%. Si è ben comportata oggi anche STM più 3,57, Unicredit più 3%, qua oggi non ci sono notizie relative ai conti o all'EBA, però insomma c'è stata una riunione importante a Milano, Paolo. esattamente. Oggi a Milano Unicredit si sono riuniti i vertici delle principali fondazioni azioniste, inoltre si è riunito il comitato nomine della banca. Naturalmente qui la riflessione è quella sulla composizione e la struttura del nuovo CDA, che sarà rinnovato dai soci nell'assemblea di maggio, e ovviamente della presidenza, dopo che l'attuale presidente Dieter Ramp ha annunciato di non essere più disponibile a un nuovo mandato. Ovviamente tutte le riflessioni sono su chi potrà essere il nuovo presidente di Unicredit. Si parla di un'ipotesi che sembra al momento forte di una presidenza italiana, ovviamente non ci sono notizie al momento, ma tutti questi incontri stanno preparando la strada proprio a questi sviluppi. E non sapete nessuna indiscrezione, dai, facci qualche gossip, sennò qua raccontiamo sempre i numeri. Anche i colleghi che sono lì davanti non hanno potuto raccogliere niente, ovviamente sono bocche cucite. Alla riunione ha partecipato, dopo ovviamente ultimamente non era potuto essere sempre presente, anche l'ex governatore della Banca Centrale Libica Farhat Omar Ben Gazzara, quindi come rappresentante dei soci libici della banca, ma ovviamente non ci sono né dichiarazioni né indiscrezioni specifiche. Va bene, insomma, una vicenda da seguire con attenzione. Intanto oggi il titolo ha riagganciati 4 euro, più 3,14, Azimut più 3, Mediobanca più 2,60, Intesa San Paolo più 2,59. Andiamo un po' a quelli che si sono comportati peggio invece in questa seduta. Autogrill meno 3,47%, non sono andati bene i conti? Ma i conti sono stati in realtà in linea con le attese del mercato, sia per quanto riguarda il fatturato sia per quanto riguarda i margini di redditività. Quello che ha penalizzato il titolo sono state in particolare le indicazioni sul 2012. I vertici della società si sono mostrati molto prudenti, prevedono un 2012 in linea con il 2011. Inoltre l'amministratore delegato ha annunciato che nei primi due mesi dell'anno, per quanto riguarda l'andamento delle attività in Italia, quindi soprattutto quelle legate al traffico autostradale, sono stati mesi molto negativi. Ha comunque precisato che la verità si avrà soltanto nei mesi estivi, che sono quelli più importanti per il business della società, ma comunque diciamo che l'avvio del 2012 non è stato facile, quindi questo outlook prudente oggi ha penalizzato il titolo in borsa. È stato il peggiore del FTSE, come dicevi tu, meno 3,47%, insieme a Finmeccanica che ha fatto meno 2,45%, Atlantia meno 1,95%, Campari meno 0,7%. Temeva la revisione della tassazione sugli alcolici, ma non ho capito, mi sembra che non si faccia, per cui alla fine... Sì, esattamente, diciamo che è un'incertezza, e anche se ci fosse, secondo molti analisti, il danno per Campari non sarebbe particolarmente rilevante, perché sarebbe in grado di far fronte a questo aumento di tassazione sul fronte del prezzo, e comunque i volumi terrebbero. Comunque diciamo che tutto il settore qui ha risentito di questa ipotesi, anche se appunto appare ormai praticamente tramontata, e secondo gli operatori oggi queste vendite sono scattate anche proprio sulla scia, diciamo, più emotiva di queste possibilità legislative. Ci risparmiamo l'ennesima puntata della telenovela Fondiaria Sai. Andrei, per concludere, Paolo, ad un altro caso del giorno, quello di Seat, pagine gialle, i titoli ordinari, meno 4,76%, peraltro un titolo al quale dovremmo probabilmente dedicare un approfondimento maggiore. Seat, pagine gialle, appunto al centro di una ristrutturazione del debito, visto che ormai è il tema più gettonato del momento da ogni punto di vista, pesantissima anche in questo caso, che nei giorni passati ha premiato il titolo largamente, oggi lo ha ripenalizzato perché? Ma oggi, a dire la verità, credo sia proprio una questione di vendere sulla notizia. La notizia ormai era, diciamo, abbastanza attesa, una notizia positiva. La società ha annunciato che è stata raggiunta la soglia dei consensi da parte dei creditori per il salvataggio del gruppo, quindi è stato superato l'ok da parte del 75% dei creditori, quindi diciamo che il salvataggio, quindi il possibile rilancio della società, evitando così la ristrutturazione e il default, è garantito. Ma il titolo, che come dicevi tu, proprio in attesa di questa notizia nei giorni scorsi aveva messo a segno alcune performance molto positive, oggi gli investitori sono passati ai realizzi, quindi il titolo ha perso il 4,76%. Grazie a Paolo Paronetto, buona serata. Buona serata a voi. Da Paolo Paronetto una buona serata anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Quando c'è Gianni Trovati, come sapete, difficilmente parliamo di belle notizie, quindi dobbiamo cominciare a rinfrescare la memoria ai nostri contribuenti all'ascolto che entro qualche mese c'è un appuntamento con il fisco, che era stato cancellato negli anni passati e che è stato invece reintrodotto, come sapete, con le misure Salva Italia. L'IMU, voi direte perché ne parlate così presto, anche se dovete pagare a giugno, e ve lo spieghiamo tra pochissimo. Allora, eccoci ritrovati in diretta. Parliamo adesso dell'IMU. quell'imposta appunto sulla casa, l'imposta, non mi ricordo mai la definizione sarebbe esatta. municipale unica, ecco la M, non mi ricordavo al volo che cosa stesse, ma praticamente quella tassa che ha sostituito l'ICI, che era stata cancellata, come ricorderete, negli ultimi 3 anni, reintrodotta adesso dalle misure di Monti nell'ambito del pacchetto Salva Italia dello scorso inverno. E allora perché ne ritorniamo, perché ne parliamo adesso, visto che siamo ancora in marzo, visto che praticamente la prima rata dovrà essere versata non prima di giugno? Perché nella sostanza, se il governo ha fissato un'aliquota allo 0,4%, praticamente i comuni hanno la facoltà di introdurre dei risparmi per i contribuenti oppure un'aliquota peggiorativa praticamente a carico dei contribuenti. E sono proprio queste le giornate in cui i comuni stanno facendo i conti su che cosa potranno fare. Il Sole 24 Ore sta facendo questo viaggio fra le ipotesi studiate dalle amministrazioni comunali e praticamente, Gianni, avete scoperto che cosa per quello che riguarda soprattutto i grandi centri monitorati fino a questo momento? Sì, abbiamo cominciato a fare appunto questo viaggio tra i grandi centri, che domani estenderemo anche ai capoluoghi di provincia, insomma alle città lontane da Milano, Roma e Napoli. Il tema è proprio quello: in questi giorni, visto che la normativa si è un po' stabilizzata dopo i tentativi di correzione con l'ultimo decreto fiscale, i comuni hanno un quadro per fare i conti e capire quanta imposta serve a loro per chiudere i bilanci del 2012, che sono appunto in costruzione in queste settimane. Visto che metà di quello che introiteranno lo dovranno versare allo Stato. Infatti, la cosa curiosa è che si chiama imposta municipale unica. È unica fino a un certo punto. In condivisione con... È unica fino a un certo punto, ma è anche municipale fino a un certo punto, perché la metà del gettito, tranne quello sulla prima casa che rimane tutto i comuni, la metà del gettito va a finire allo Stato. Questo di conseguenza complica i conti dei comuni, che devono fare i conti A, con il fatto che metà del gettito va appunto allo Stato, B, con Italia e gli altri fondi, insomma, che sono stati previsti dal cosiddetto decreto Salva Italia, e che quindi si trovano in molti casi costretti ad alzare le aliquote, in particolar modo su quelli che vengono detti cosiddetti gli altri immobili, cioè tutto quello che non è prima casa. Questo va a colpire soprattutto gli immobili concessi in affitto, i negozi, gli immobili strumentali all'attività di impresa, e mentre sulla prima casa, diciamo, il peggioramento è secco, legato al fatto che l'anno scorso appunto l'ICI non si pagava più dal 2008. Questo da un lato è una strada, come dicevamo, in alcuni casi, molti casi, inevitabile, ma visto, diciamo, nell'ottica del contribuente, che è quella che più ci interessa, è una strada che determina incrementi fiscali molto alti, perché per esigenze di gettito, proprio l'IMU solo allo Stato deve dare 10 miliardi di euro all'anno. Per ottenere questi risultati, il decreto Salva Italia ha introdotto dei moltiplicatori che appunto moltiplicano il valore catastale, cioè la base imponibile su cui si calcola l'imposta. Il famoso 160... Quello lì, di quella, esattamente, aumenta del 60% la base imponibile. A questo ci applichi un'aliquota media che è più alta rispetto a quella dell'ICI, perché l'ICI media l'anno scorso è il 6,5 per mille. L'aliquota base dell'IMU è invece il 7,6. I comuni lo possono alzare fino al 10,6. Risultato finale: per immobili dati in affitto, soprattutto in città come per esempio Milano, dove l'aliquota ordinaria era bassa, e per negozi, per tutte le seconde case e così via, l'incremento è nell'ordine del 200%, cioè triplica la tassa. Per esempio, noi abbiamo fatto i conti oggi sul Sole 24 Ore, domani li riprenderemo in modo più ampio, un negozietto piccolino, neanche in centro, che pagava, mettiamo, 300 euro all'anno di ICI, pagherà 900 euro all'anno di IMU. Un immobile di un capannone di una piccola impresa che pagava 12-13 mila euro all'anno di ICI pagherà 28-29 mila euro di IMU. Una casa in affitto avrà la stessa tipologia di incremento. La cosa curiosa è che sempre per esigenze curiosa è un eufemismo, sempre per esigenze di gettito, la disciplina dell'IMU è molto più rigida di quella dell'ICI, che permetteva svariati sconti ai comuni, per esempio, l'immobile dato in affitto a una famiglia che ne fa la propria abitazione principale, spesso con l'ICI veniva trattato con aliquote più basse da abitazione principale. Ancora di più, il canone concordato, quello che si ha nelle grandi città cosiddette ad alta tensione abitativa, per dare case in affitto a canoni molto più bassi di quelli di mercato, aveva un super incentivo fiscale che rischia di non essere riprodotto con l'IMU. Risultato finale: una casa in affitto a canone libero, diciamo così, incontra un aumento, mettiamo, del 100%, cioè raddoppia l'imposta. Un affitto a canone concordato, se non può essere riprodotto lo sconto, moltiplica di 5, 6, 7 volte il carico fiscale rispetto all'anno scorso. Uh-huh. In tutta questa raffica di aumenti c'è, esatto, una categoria che si salva. Esattamente, volevo arrivare a chiederti se ci fosse qualche caso virtuoso da raccontare, proprio per non deprimere i nostri ascoltatori. Purtroppo però non è virtuosa, come spesso capita nel... perché il problema è questo: da tutta questa raffica di aumenti si salvano le case tenute vuote, le case tenute ufficialmente vuote, nel senso che a volte possono essere occupate con degli affitti in nero, che però pure quello, diciamo, è un fenomeno che tendenzialmente vorrebbe essere debellato, però. Esattamente. Queste tipologie di immobili con l'ICI pagavano anche un'altra tassa, che era l'IRPEF sui redditi fondiari, uh-huh, che con l'IMU non pagano più. Risultato: nel 2012 ad aliquote, diciamo, di riferimento pagano meno rispetto al 2011, mentre tutte le altre tipologie di immobili vengono notevolmente tassate. Benissimo, Gianni, ti lasciamo andare a compilare la tua mappa sul territorio. Grazie, grazie, buon lavoro, a presto. Noi adesso cambiamo argomento e parliamo di vino. Ci finiamo in bellezza, almeno bevendo un buon bicchiere, almeno in tanti ne berranno sicuramente tutti coloro che parteciperanno dal 25 al 28 marzo alla 46esima edizione del Vinitaly a Verona, la più grande kermesse mondiale praticamente del vino. Sicuramente possiamo attribuirci questo merito. Vi ricordo che ci sarà anche Radio 24 con le sue trasmissioni, ci sarà Focus Economia, ci saremo con Salva Danaio e con tante altre cose ancora. Con i suoi 4.000 espositori, Vinitaly si conferma uno dei più importanti appuntamenti per gli operatori del settore, un settore che nel nostro paese vale 10 miliardi di fatturato, di cui 4 dall'export, in crescita del 13% sul 2010, quindi è un settore che sicuramente ancora vive una fase soddisfacente rispetto ai tempi di crisi che complessivamente il mondo economico produttivo sta vivendo. Anche quest'anno si conta di fare il pieno di visitatori. Abbiamo sentito Ettore Riello, presidente di Verona Fiere, intervistato da Zelia Pastore a margine della presentazione milanese di Vinitaly. Lo stato di salute del Vinitaly è ottimo, perché è fortemente elaborato e lavorato con la capacità di sapersi adattare a quelle che sono le esigenze di questo mercato. Quindi credo stiamo dando veramente un segnale molto forte di affiancamento. Siamo una leva della politica industriale di questo mondo, quindi molto bene, credo. E per quanto riguarda il settore fieristico? Settore fieristico purtroppo in Italia dovrebbe essere maggiormente considerato un pezzo della politica industriale del paese, perché proprio attraverso questo mondo transitano più di 60 miliardi di attività e transita il 10% dell'attività verso l'estero. Purtroppo oggi non c'è una gestione, una regia centralizzata, che secondo me sarebbe invece un grande punto di forza. Si potrebbe star molto meglio, si potrebbe sperperare molto meno e si potrebbe dare molto di più al sistema industriale italiano. E per quanto concerne il cambiamento di date di quest'anno, è in linea con la politica di venire incontro alle aziende? Il cambiamento di date è stato un atto di grande coraggio, perché come sempre modificare ciò che funziona potrebbe essere un requisito che pone molte domande. In realtà con questo abbiamo voluto maggiormente dare la possibilità a tutti gli espositori di fruire anche di un mondo alternativo, aggiuntivo, che precedentemente non riuscivano, ma che è molto importante: il mondo della ristorazione, il mondo degli chef, il mondo degli specialist. Quindi credo che in questo abbiamo dato, dico, un ulteriore punto di vantaggio che al momento era particolarmente osteggiato. Oggi invece sento una grande disponibilità e accettazione e riconoscimento da parte di tutti, e quindi credo sia stata una scelta assolutamente giusta. Sempre sulla manifestazione veronese, ve lo ribadisco ancora, in programma dal 25 al 28 marzo a Verona, Fiere Vinitaly. Abbiamo sentito Giovanni Piero Sanna, direttore generale dello sviluppo agroalimentare della qualità del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ancora al microfono di Zelia Pastore. Il governo punta totalmente sulla qualità dei prodotti del vino e quindi sul controllo della qualità, incoraggiando le aziende a produrre vino conforme ai nuovi regolamenti comunitari, e quindi vino che consenta tra l'altro di confermare l'eccellenza italiana, che non aveva bisogno di queste norme perché già di per sé negli anni è riuscita ad affermarsi con produzioni di alto profilo e fortunatamente pienamente conformi con gli obiettivi che l'Unione Europea ha dato a tutela della qualità. Vinitaly è una grande vetrina, è l'occasione per promuovere davvero le eccellenze, perché poi c'è una selezione naturale, vengono fuori le grandi case, i grandi gruppi e anche piccole aziende di nicchia che, proprio perché fanno prodotti di alto profilo, riescono ad emergere. Presentarli al Vinitaly vuol dire avere una veicolazione dell'informazione, della conoscenza molto più efficace e molto più forte. E anche per questa sera Focus Economia termina qui. Barisoni, non ce lo siamo giocato, come teme qualche ascoltatore. Domani sera tornerà più in forma che mai a farvi compagnia con Focus Economia. Io intanto ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, non solo per la collaborazione in redazione, anche per le grasse risate che si stanno facendo dietro al vetro, insieme a Pietro Lacorte per la collaborazione tecnica, che ringrazio. Grazie a tutti per aver avuto la pazienza di restare in nostra compagnia anche stasera. Da Deborah Rosciani, buona serata, ci sentiamo domani. A Salvadanaio. Radio 24. La passione si sente.